Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quante volte abbiamo sognato di mollare tutto, di ricominciare da capo in un posto lontano, e quante volte abbiamo pensato all'Australia, che è un po' un mito, no? Una terra di frontiera, un paese con spazi immensi per il quale si immagina una vita a misura d'uomo. Però ci sono anche persone che dall'Australia hanno seguito il percorso inverso, e molte rockstar, mi vengono in mente gli AC/DC per esempio, comunque i Bee Gees, partire da un'isola lontana per vivere altrove la ricerca dei propri sogni. Questo è quello che ha fatto la protagonista della storia di oggi, una bellissima ragazza un po' tascabile, che ha iniziato come attrice per poi scoprirsi cantante, per diventare un'icona pop capace di vendere oltre 70 milioni di dischi in carriera. Però parliamo anche di una grande donna che ha affrontato grosse difficoltà. Grazie anche alla segnalazione di un nostro amico Silvio Conti, che ci ha scritto su Facebook, oggi vi raccontiamo la storia di Kylie Minogue. Spesso ci capita di raccontare storie di persone che sono attratte dal mondo dello spettacolo per una specie di, non so, di contaminazione del DNA. Anche questa volta siamo nella stessa situazione, perché Ronald Charles Minogue è un contabile, non ha niente a che vedere con le luci dello spettacolo. Però Caroline, la mamma di Kylie Minogue, è una ballerina professionista che riesce a trasmettere il virus del palcoscenico a tutti e tre i figli, Kylie, Danny e Brandon. Kylie è una bambina molto carina, ha occhi verdi, bionda, comincia a fare qualche piccola comparsa in serie televisive australiane e raggiunge subito molta dimestichezza con la telecamera. Recita dall'età di 11 anni insieme a sua sorella Danny, che è ancora più piccola di lei, ha 3 anni in meno. Poi le strade si dividono perché Danny comincia a cantare, mentre Kylie rimane legata al mondo delle soap opera. Il suo punto di riferimento è un'altra attrice australiana che in quegli anni sta vivendo il massimo successo mondiale. Quando al cinema uscì Grease, ero letteralmente impazzita per Olivia Newton-John. Ero solo una bambina, ma avevo già le idee molto chiare. Volevo fare l'attrice, ma volevo anche essere capace a cantare, per diventare come lei. Certo, questo non piaceva molto a mio padre, che, essendo il signor 2 più 2 uguale 4, paragonava il pop al giardino degli orrori. Il papà non è contento, però non si oppone. Così alla prima occasione arrivano altre persone che consigliano la strada a Kylie, che a 19 anni, nell'87, si esibisce in un concerto benefico cantando la sua versione di The Locomotion, un pezzo portato al successo da Little Eva. E subito la Mushroom Record le propone un contratto per pubblicare questa canzone. Insomma, per l'attrice Kylie Minogue cominciano a spalancarsi le porte del mondo della musica. Il singolo arriva in testa alle classifiche australiane, rimane al numero uno per molte settimane, e così la casa discografica prende accordi con il trio di produttori inglesi Stock, Aitken e Waterman, conosciuti anche come SAV, sono gli autori di molti successi dell'elettropop inglese, Dead or Alive, Bananarama, Rick Astley, Samantha Fox. Solo che questi non sanno niente di questa ragazza australiana, si dimenticano del suo arrivo. Così, per correre ai ripari, scrivono in tutta fretta una canzone per lei mentre Kylie è seduta in sala d'aspetto. Il singolo che viene fuori si chiama I Should Be So Lucky, e la canzone le porta fortuna. Lei registra in un'ora e con questo singolo raggiunge la cima delle classifiche inglesi e di mezza Europa. Sì, che poi queste storie sanno un po' di leggenda, magari loro avevano un avanzo di magazzino, l'hanno messo a posto e l'hanno riciclato, ma comunque il risultato è egregio. Insomma, il mestiere di cantante non è più solo un diversivo, le cose cominciano a farsi serie e lei deve abbandonare la sua carriera di attrice. Il suo primo album, intitolato Kylie, vende 7 milioni di copie, conquista le classifiche di tutto il mondo, entra anche nelle charts americane. E gli anni 90 sono alle porte, bisogna essere al passo coi tempi. Lei, con 2 album in 2 anni, riesce a piazzare 5 singoli al numero 1 delle classifiche inglesi. Però sta per finire il mondo, diciamo, un po' sdolcinato, un po' zuccheroso delle reginette pop. Bisogna cambiare look. inizia la metamorfosi, una metamorfosi molto gradita, perché lei da ragazzina acqua e sapone comincia a presentarsi come una sirena sexy, e a contribuire a questa metamorfosi interviene anche un cantante australiano di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, quel birbante di Michael Hutchins degli In Excess. I due hanno una relazione, lui scrive per lei Suicide Blonde, e questo cambiamento anche, diciamo, di vita, di atteggiamento nei confronti della vita, porta intanto alla rottura del suo contratto discografico. Mi sono affidata molto alla fortuna. Il pop offre moltissime opportunità diverse, ma non so se qualcun altro avrebbe buttato un contratto discografico che assicurava il successo solo per decidere cosa fare nel prossimo album. Io ho rischiato e sono contenta di averne avuto il coraggio. Comunque l'ultimo album con Paul Waterman contiene 3 singoli che arrivano al numero 1 delle classifiche, ma lei vuole cambiare, vuole iniziare a scrivere i suoi pezzi, vuole dare un taglio più professionale alla sua carriera. Il falco e il gabbiano. Nel 1997 esce il 5º album di Kylie Minogue, atmosfera più dark, lei comincia a avere libertà nella scrittura dei pezzi, ma c'è una svolta, una collaborazione importante. Nick Cave la chiama per duettare in una canzone memorabile. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. Eh sì, e lì lei allarga lo spettro di influenza. Per esempio, uno come me, che non aveva mai sentito nominare Kylie Minogue, perché io, insomma, non mi occupo di pop di questo genere, probabilmente non avrei mai saputo chi era. E poi invece l'ho vista lì in un video bellissimo in cui lei appare come un cadavere in un lago con la sua voce sensuale che fa da contraltare al timbro cupo di Nick Cave, uno invece del quale io ho seguito passo passo tutta la carriera. Insomma, questo progetto dà un colpo importante alla sua carriera, intanto perché si lascia alle spalle definitivamente l'immagine acqua e sapone, poi perché appare come un'artista completa e poi perché riceve un imprimatur di questo genere da un grandissimo, cioè da Nick Cave. Nel 99 comincia la collaborazione con la Parlophone, l'etichetta per la quale, insomma, quella dei Beatles. L'album di esordio contiene il singolo Spinning Around, che debutta al primo posto in classifica, e la sua popolarità è alle stelle. Si merita addirittura l'onore dell'esibizione dal vivo alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Sydney del 2000, e lì lei elegantemente non canta una sua canzone ma una cover di Dancing Queen degli ABBA. Ed è vicino il momento della consacrazione definitiva. L'album è Fever, esce nel 2001, il disco è anticipato da un singolo che diventa uno dei brani più ballati della storia delle discoteche del mondo, Can't Get You Out of My Head. Lei nel video è incappucciata in una tutina bianca, una profonda scollatura che, come dire, sconvolge tutti i ragazzini del mondo. Eh sì, perché non l'abbiamo ancora sottolineato abbastanza, ma lei è veramente una bellissima ragazza che non ha potuto fare la fotomodella per l'altezza, perché è alta solo 1,52 m, ma questo me la fa piacere di più perché me la vedo maneggevole. E insomma, lei ha saputo coniugare le sue abilità canore con una grandissima carica sexy. La canzone arriva al numero 1 in più di 20 paesi, rimane in classifica per oltre 6 mesi. Kylie Minogue con questo album non è più solo una regina della dance, è una delle ragazze più desiderate al mondo, è un'icona sexy che piace sia al mondo etero che a quello omosessuale, che ama, insomma, questo tipo di donne così configurate con precisione, no? E lei è una principessa pop che ti conquista con lo sguardo. Come afferma lei stessa in un'intervista, il sesso è un ingrediente fondamentale. Pick up a magazine, turn the TV on. It's everywhere. Prendi un giornale, accendi la televisione, il sesso è ovunque. Non sto facendo nulla di diverso da quello che fanno gli altri. Se faccio 2 fotografie, una con uno sguardo normale e una con uno sguardo un po' più provocante, quale pensi che la gente sceglierà? Sono contenta di quello che faccio, non me ne vergogno. E questo è tutto. I'm unashamed, I enjoy that, I like doing that. Eh sì, siamo d'accordo. È un momento positivo per la cantante australiana, ha raggiunto il successo, ha cambiato le cose, ha preso in mano il controllo dei suoi rapporti con la casa discografica perché è entrata nel meccanismo di produzione. E quello che non le piaceva all'inizio della sua carriera, cioè presentarsi in studio, cantare come volevano i produttori, lei non lo deve più fare. Lei adesso scrive i testi, sceglie lo staff per i concerti, è diventata manager di se stessa, ha preso in mano il suo destino e si può permettere anche album di sperimentazione come nel 2003, quando abbandona lo stile dance, si avvicina a atmosfere più elettroniche con collaborazioni importanti che le aprono le porte degli Stati Uniti, e comincia anche a frequentare gli show televisivi americani come il Jimmy Kimmel Show. Thank you for being here. Congratulations on the Grammy nomination. Thank you. Is this your first Very good. And you you're in like the dance category, correct? Yeah. You're and who, Madonna is in that category, and Madonna, Cher, and a couple of other people. A couple other people who aren't quite as famous, but that's a pretty tough that's category. That's a terrible thing to say, but I can't think right now. Yeah. No, are you drunk? No, I'm not. Eh sì, qui lei con disinvoltura, insomma, si mette nella categoria di delle grandissime, di Madonna, di Cher e di altre. Insomma, sembra tutto perfetto. Lei sta vivendo la miglior favola possibile. Da piccola sognava di poter diventare come Olivia Newton-John, ma ha fatto molto di più. È diventata l'artista australiana più famosa di sempre. E il mondo è ai suoi piedi. Lei vive al 100% la sua vita da star. Non ha un compagno fisso, non ha famiglia, non ha figli, passa da un aereo all'altro in giro per il mondo, insomma ha raggiunto il massimo, e però vive in modo normale, non manifesta quei disagi, quella follia, quella inadeguatezza a cui molte star ci hanno abituato. E in questa normalità lei riesce a trovare il tempo per andare in vacanza con i genitori, con la sorella Danny, anche lei cantante, a vivere la vita di tutti i giorni, e nella vita di tutti i giorni c'è anche il tempo per qualche visita medica, per fare prevenzione. Proprio durante una di queste visite il mondo perfetto di Kylie Minogue crolla. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando quella che fino a questo momento sembrerebbe essere una favola, la storia di Kylie Minogue, la regina del pop inglese mondiale degli anni 90, australiana, conquista le classifiche di tutto il mondo con voce, bellezza, sensualità. E dopo l'uscita di Can't Get Out of My Head è diventata un'artista di fama mondiale, nulla sembra intaccare quel momento di felicità, però per lei c'è una data, c'è un giorno preciso che cambia tutto. 17 maggio 2005 è la data di una visita medica, una di quelle fatte per controllo, e per come sono andate le cose possiamo dire che è una giornata che dimostra quanto la prevenzione possa salvare la vita. Quando il dottore me lo disse, rimasi in silenzio. Avevo accanto a me mia madre e mio padre e subito risposi: no, un momento, io ho un volo per Sydney tra 2 ore, ho una data da rispettare. Ma il dottore disse: no, non devi prendere nessun aereo, tu devi rimanere seduta. Kylie Minogue ha 37 anni, le viene diagnosticato un tumore al seno, allo stato iniziale. Questo non significa minore pericolo, significa solo maggiore percentuale di guarigione. Il mondo per lei si ferma improvvisamente, tutto cambia prospettiva. 2 mesi prima lei aveva iniziato il tour e improvvisamente tutte le cose che per lei erano la routine, gli aerei, i concerti, gli autografi, le fotografie, sono tutte cose che vengono spazzate via da poche parole pronunciate da un medico. Lei deve essere operata immediatamente e seguire tutta la procedura che si segue in questi casi. Insomma, per lei questo significa un lungo stop. I had one day's grace where I knew. Ho avuto un giorno prima del ricovero e l'ho passato con il mio fidanzato e con mio fratello. Ma ero nervosa e volevo che passasse subito. Poi il giorno dopo mi hanno ricoverata e mi sono sentita prigioniera, ma non perché fossi in ospedale e non potessi uscire. Con la mia mente ero totalmente in un altro luogo. Completely thrown into another world. Beh, lei parla di questo argomento con molta consapevolezza, è una cosa rara. A noi da questa redazione non può che venire in mente Francesca Del Rosso, che ha affrontato la sua malattia con lo stesso piglio, anche se ahimè con un altro risultato. Insomma, Kylie Minogue capisce che il suo mondo dorato deve essere accantonato perché bisogna risolvere un problema più grave. It's really hard for me to... È davvero difficile spiegare cosa provassi in quei momenti. E tutto l'iter, con la diagnosi, l'operazione, la cura e tutto il resto. È un'esperienza talmente personale. In quel momento mi preoccupavo per i miei genitori, ma cercavo di stare calma, prendendomi tutto il tempo di cui avevo bisogno per capire quello che mi stava succedendo. La notizia rimbalza sui giornali di tutto il mondo. Una delle prime persone a contattare Kylie Minogue è Anastasia, che 2 anni prima, nel 2003, aveva subito la stessa operazione. Poi arriva il momento di spegnere tutti i collegamenti col mondo esterno e di lasciare che i giornali si occupino di altro per superare al meglio la malattia. Per Kylie Minogue c'è un blackout totale di 18 mesi duri, nei quali affronta la chemioterapia, la perdita di peso, la perdita dei capelli e tutte cose che rappresentano il percorso più difficile di una donna che vede sparire tutti i segni della sua bellezza, del suo successo in questi casi, tutti i segni della normalità. E il recupero non è solo fisico, è mentale. In questo viaggio Kylie trova il conforto dei genitori, della sorella, che le stanno sempre vicine. E nel giugno del 2006 lei si presenta al pubblico durante un concerto della sorella Dani, sale sul palco, è avvolta in uno splendido vestito nero con i capelli corti perché sono cresciuti da poco, ha un mazzo di fiori per sua sorella. E i 2000 spettatori che assistono allo spettacolo assistono anche a un intenso e lunghissimo abbraccio tra le due ragazze, quasi a esorcizzare la fine di un periodo che entrambe vogliono dimenticare. Da tutto il mondo arrivano migliaia di lettere da parte di ammiratori, di fan di tutte le età, ma anche da parte di donne che hanno subito la stessa operazione, che magari stanno conducendo la stessa battaglia e la sostengono, vogliono che lei recuperi il più velocemente possibile. I've thought about this moment for a long time now. So I'm just going to say what comes to me, and that is you know, generally I'm like 10 minutes late. This is officially fashionably late, a year and a half. Frase efficace, forse studiata, ma molto bella. Lei dice: di solito sono sempre 10 minuti in ritardo, questa volta il ritardo è un ritardo più lungo, di un anno abbondante. E sono le parole con cui lei si presenta in concerto a Sydney, siamo nel novembre 2006, e sì, perché lei parte sempre dall'Australia quando poi vuole andare a conquistare o a riconquistare il mondo. L'applauso fa capire a lei che tutti hanno atteso con trepidazione il suo ritorno. Insomma, la carriera di Kylie Minogue riparte esattamente da dove si era fermata. Così, dopo quel periodo di riposo forzato, se così si può dire, lei torna al lavoro, pubblica altri dischi di successo, appare diversa dalla pop singer degli anni 90, è cambiata la musica, lei è cambiata dentro, ma soprattutto è riuscita a rinnovarsi. Iniziano collaborazioni con importanti produttori di rap, poi duetti prestigiosi come quello con Bono, gli U2 e poi anche la nostra Laura Pausini con il brano Liquido. Insomma, il segreto del suo successo è stato sicuramente la sua capacità a continuare a rinnovare il suo stile, la sua immagine è rimasta al passo con l'evolversi delle mode. Pensate che Madame Tussauds nel Museo delle Cere londinese, io l'ho visto recentemente, ha dedicato a Kylie Minogue 4 differenti statue proprio per sottolineare questa sua capacità di cambiare look. In tutti questi anni mi hanno sempre detto che io ho saputo reinventarmi 1, 5, 100 volte. Ma io non sono così convinta che questo sia vero. Devi reinventare te stessa se hai fallito e allora devi cancellare tutto e ripartire da zero. Io invece non ho fatto altro che guardarmi intorno e sono riuscita a cogliere il meglio degli anni che passavano. Una delle sue armi più importanti è stata la seduzione, diventata l'oggetto del desiderio di tanti uomini, anche se non è mai riuscita a trovare una stabilità familiare, forse non l'ha neanche mai voluto. Oggi lei gira il mondo, fa concerti clamorosamente affollati e ha dimenticato quel colpo d'ala verso il basso che lei è riuscita a superare volando al contrario. E poi si occupa di progetti speciali, ovviamente raccoglie fondi per sostenere la ricerca. Ora la mia vita ha ripreso un ritmo normale, ma questo non vuol dire che io non viva una sfida tutti i giorni. Quello che è successo a me capita a centinaia di donne ogni giorno e questo vuol dire che non dobbiamo mai abbassare il livello di attenzione. Eh sì, a volte personaggi famosi servono anche perché se loro vengono toccati da qualcosa di terribile danno fiducia agli altri e lanciano messaggi positivi come quello della importanza della prevenzione. In fondo Kylie Minogue è viva, vegeta e fa concerti proprio grazie alla decisione di farsi visitare periodicamente. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci se conoscete qualcosa che merita di essere raccontato, insomma seguitemi, interagite sul sito di Radio 24, sui miei social Facebook, Twitter, Instagram, sui nostri social, insomma se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.